Salve a tutti, sono di nuovo io. Questa è la seconda puntata del mio mini podcast. Questa sera, appunto, volevo parlare della difficoltà di trovare, appunto, i biglietti per Palermo-Sampdoria, difficoltà in cui sono incappato anche io, visto che con l'amico mio Emanuele abbiamo avuto, appunto, problemi di come dire, problemi di questo tipo, di trovare il biglietto. Allora, a Palermo praticamente i biglietti da Palermo e provincia sono praticamente esauriti. Non ci sono più praticamente. Sia proprio Palermo-Palermo che in provincia, biglietti totalmente esauriti. Una piccola possibilità, piccolissima però, è data dai biglietti a visibilità ridotta, che saranno in vendita mercoledì mattina praticamente nella biglietteria della Curva Sud. Questo sempre sul sito ufficiale. Quindi sul sito ufficiale c'è praticamente questo. Un'altra considerazione da fare è che evidentemente poteva essere organizzato molto meglio questa vendita di biglietti, non vendendoli da giovedì prima della partita col Siena, ma da oggi. Evidentemente si volevano assicurare l'incasso anche per la partita contro la Sampdoria, in caso a Siena non sarebbe andato tutto bene. Queste cose erano due da fare: o avere fiducia nel Palermo, oppure, come hanno fatto in molti, aspettare. Quei molti che poi sono rimasti fuori, perché appena il Palermo ha vinto domenica c'è stato l'assalto alle biglietterie. Veramente non è stata una bella pensata questa della nostra società. Beh, comunque, sperando sia di buon auspicio, metto questa canzoncina per voi. Ci sentiamo dopo la canzone. Forza Palermo, sei la squadra del mio cuore. avete visto qua appunto i nostri Alamia e Sperandeo che ci hanno aiutato così per poter l'inno, questo è uno dei, non è uno dei, è l'inno del Palermo, solo che evidentemente la società non lo riconosce, fatto da due grandi artisti come Giovanni Alamia e Tony Sperandeo. Si è cercato di fare un nuovo inno, altri inni, ma hanno avuto uno scarso successo. Questo, diciamo, è l'inno più conosciuto del Palermo. Ci sentiamo domani o dopodomani alla prossima puntata del podcast. Vi rinnovo ad andare nel mio blog, sperando di trovarlo interessante. La prossima puntata parleremo di, se potremo parlarne, parleremo di Hattrick. E avremo anche qualche ospite a sorpresa, forse, non si sa. Ci sentiamo, arrivederci a tutti.